Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. E alle 8:35 minuti di questo sabato inizia una nuova puntata di Si può fare. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno e ben ritrovato anche a te, Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come hai detto tu, e buon sabato. E giustamente domani ci vieni a trovare, giusto? Ci salutiamo, insomma, di persona. Esatto, domani abbiamo l'ultima puntata di questa stagione e quindi sono in sede, sono felicissimo di poterti, abbracciare, ci si può abbracciare, ma sì, noi siamo praticamente due congiunti di fatto. siamo congiunti separati. Esatto. Beh sì, no, questo credo che non sia consentito, sai, dovremmo farlo per strada, nascostamente dagli occhi del direttore, che non la prenderebbe benissimo, tanto più il direttore del personale, non ne parliamo, ci butta fuori tutti e due. Però allora ecco, Ci vediamo fuori. Ti aspetto fuori in camporella e poi entriamo. Ti aspetto fuori, va bene. E invece no, vabbè, qui poi però possiamo stare nello stesso studio. Questo ormai è stato sdoganato, possiamo stare nello stesso studio, ti posizioneranno più distante, ovviamente, rispetto a prima, però possiamo essere tutti e due qui per salutare gli ascoltatori in quella che sarà l'ultima puntata, come dicevi, della stagione. Poi c'è la pausa estiva e ognuno di noi farà quello che vorrà fare, se potrà farlo, perché io personalmente da lunedì sarò di nuovo qui, però non cambia niente, certo. Questo è in onda la mattina ancora, sì dalle 8 alle 9:30. Ma cos'è questa estate? Hai capito? Ma bello, cos'è quest'estate, bellissimo, con la Bettina al microfono? Si domanderanno gli ascoltatori e anche quello che già, come al solito, io ti ascolterò, di sicuro ti ascolterò tutti i giorni e tutti i giorni dirò: porca miseria, avevo la radio! E invece dirò: no, non è vero, non è né sabato né domenica, io è un nuovo posso programma di dormire, tu ti dirai così, io posso girarmi dall'altra parte e dormire. Esatto. Ok, allora oggi è la giornata nella quale si concorre per il nostro quiz, c'è una domanda, tre possibili risposte, chi la azzecca si porta a casa un volume della collana Il lato divertente di imparare. Sono anche in edicola, ma voi potreste vincerlo partecipando appunto al nostro quiz oggi o domani, partecipando all'indovinello sul personaggio della settimana. Sono giochi e attività per allenare l'intelligenza emotiva dei più piccoli, in edicola con Il Sole 24 Ore oppure in palio qui soltanto con noi. Si fa, come si fa? Diamo i numeri, dai. 800 24 00 24, questo è il numero verde da digitare per concorrere, oppure come sempre, ma questo non per concorrere, c'è il numero 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, questo per comunicarci le vostre idee, le vostre impressioni, magari commenti ai temi che toccheremo nel corso di questa puntata. Non vale, no, lo diciamo ancora una volta, non so, se mi sembra impossibile, giusto, che qualcuno ancora non l'abbia capito, comunque non vale per concorrere né per il quiz né per l'indovinello. Aggiungo solo che io leggo solamente gli SMS, non i WhatsApp, quindi se avete delle cose da scrivermi su WhatsApp tenetele a freno e scrivetele domani, che sarò in studio, quindi potrò leggere anche i WhatsApp e potrò leggere i vostri commenti. Esattamente. Allora, Carlo, invece cosa ti ha colpito questa settimana? Qualche buona notizia, qualcosa in particolare? Sì. Guarda, oggi è, come dicevamo, è l'ultimo sabato di questa stagione di Si può fare. È stato un anno complicato e difficile per tutti. Ci tengo a ringraziare ogni ascoltatore per l'affetto e anche per le critiche. Quella che mi viene rivolta con più frequenza è che parlo troppo spesso di Salvini, di diritti civili e di omosessualità. Ecco, oggi invece volevo parlare di legge elettorale e dell'importanza che un paese si dia regole giuste per scegliere i propri rappresentanti. E mi sono imbattuto in questa affermazione, purtroppo di Salvini, che nell'ennesimo tentativo di non occuparsene dice: la legge elettorale è l'ultima delle priorità per gli italiani, come la legge sulle adozioni gay. Una maggioranza che occupa il Parlamento per parlare di questi temi è una maggioranza pericolosa. Ecco, e mi sono chiesto, ma perché per sostenere una castroneria, ovvero che agli italiani non interesserebbe la legge elettorale, devi aggiungerci un paragone falso? Perché in realtà si sta parlando di legge contro l'omofobia in Parlamento, non di adozioni. Perché quando non sei in grado di difenderti decidi di attaccare e soprattutto di far star male un'intera comunità, quella omosessuale? Ma soprattutto, perché Salvini deve sempre infilarci i gay come spauracchio, i gay come problema, l'omosessualità come sua personale ossessione, anche quando non c'entra nulla? Se lo chiedessi a un amico gay, lo so, mi direbbe semplicemente: chi parla sempre di gay è gay, ma non lo vuole ammettere. Io non mi spingo così oltre, che già mi immagino le repliche partendo da: io sono padre di famiglia, lo dico da padre, ho molti amici gay, insomma le solite. Però a mia discolpa dico solo che se le va a cercare anche quando io non vorrei parlare di lui. Ecco, diciamo che perlomeno la colpa sta un po' dalla mia parte e un po' dalla sua. Ma la buona notizia di oggi è un'altra. Un senatore repubblicano negli Stati Uniti, 65enne, Ted Yoho, ha avvicinato la parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez, rea di aver parlato del rapporto fra povertà e criminalità organizzata, e l'ha insultata chiamandola anche fottuta puttana. Poi ha pensato bene di non scusarsi, dicendo che è impossibile che lui abbia usato quella parolaccia, dal momento che sono un padre di famiglia, sposato da 45 anni. Io sono una brava persona. La Ocasio-Cortez così ha risposto: avere una figlia non ti rende un uomo dignitoso. Avere una moglie nemmeno. Trattare le persone con dignità e rispetto, questo ti rende un uomo dignitoso. Io voglio ringraziare Ted Yoho per aver mostrato al mondo che si può essere uomini di prestigio e di potere e aggredire le donne, avere figlie e aggredire le donne, avere una moglie e aggredire le donne, farsi delle foto e proiettare l'immagine di uomo di famiglia e aggredire le donne senza rimorso e con un senso di impunità. Succede ogni giorno. Ecco, ogni volta che succede, che non si può stare, ogni volta che succede, scusate, io penso che non si può stare zitti, fosse anche la milionesima volta, fosse anche tutti i sabati, si può fare, si deve fare. Io intendo continuare a farlo perché ne va della nostra dignità. Carlo, non propriamente buone notizie ci hai portato, una riflessione molto importante sulla società nella quale viviamo, ma non propriamente buona. Questa settimana ti sei Ocasio-Cortez e ti ha incupito. Con i suoi 26 anni ha risposto molto bene, invece io credo che sia importante riconoscere che in Parlamento ogni tanto ci si occupa anche, diciamo, di ristabilire la verità e quello che accade. Quindi io in realtà riavvicinati al microfono che ti sentiamo lontanissimo. Ci sei? Io in realtà la prendo come una buona notizia, dicevo, perché mi sembrano importanti le parole della parlamentare Ocasio-Cortez, che ristabilisce che anche in Parlamento a volte si parla di verità e di come stanno le cose. Senti, ti riconduco su temi assai più vicini e meno, come dire, alti, perché abbiamo un concorrente per il nostro quiz. Si chiama Mimmo, ha chiamato dalla provincia di Salerno, ha digitato molto rapidamente l'800-24-00-24. Buongiorno Mimmo. Sì, pronto, buongiorno Laura e complimenti per la trasmissione. Grazie Mimmo, grazie. Buongiorno. Complimenti a lei che ci segue. Buongiorno dottor Carlo. Allora è pronto, si ricorda la funzione? La ringrazio per il dottore. Sì, mi dica. Allora, leggo il testo, eh. Lorena Ramirez, una ragazza messicana appartenente alla tribù Tarahumara. La sua incredibile storia recentemente è diventata un documentario su Netflix. Che cos'è che la rende tanto speciale? Risposta 1. Lorena è in grado di parlare in 7 lingue straniere differenti pur essendo analfabeta. Risposta numero 2. Lorena corre la maratona con i sandali e gli abiti tradizionali della tribù. E la cosa incredibile è che vince sempre. Risposta numero 3. Lorena capisce il linguaggio degli animali e ha scoperto che i procioni sono piuttosto permalosi. E la risposta numero 1. Mimmo, grazie per aver provato, ma la risposta... Posso fare un saluto? Sì, no, aspetti un attimo. La risposta corretta è la numero 2. Corre la maratona con i sandali e gli abiti tradizionali della tribù. E la cosa incredibile è che vince sempre. Quindi questa era la risposta corretta. Io le do veramente una frazione di secondo per il saluto, perché come sa abbiamo la viabilità a quest'ora. Sì, ok, allora volevo salutare a tutte le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. La ringrazio molto, Mimmo. Grazie mille. Un saluto e la viabilità. Anche noi. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È nato il Registro Europeo delle Donne Operanti nel Campo della Cyber Security. Ti sei un po' spaventata l'idea, Carlo? Mica da ridere questa cosa. Sono molto curioso, più che spaventato. Sono molto curioso diciamo della necessità anche qui di proteggere chi c'ha meno possibilità. Allora, Domitilla Benigni è il direttore generale di Elettronica SPA, che si occupa di sistemi di difesa elettronica. Del gruppo Elettronica fa parte CipherGate, di cui la stessa Domitilla Benigni è presidente, ma lei è anche tra i fondatori della fondazione Women for Cyber, che è nata per promuovere la partecipazione delle donne nel mondo della cyber security. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille, buongiorno a lei. Allora, noi intanto siamo curiosi di sapere cosa fate con la Fondazione Women for Cyber e a cosa serve poi questo registro delle professioniste europee che lavorano in questo settore. Sì, dunque, Women for Cyber è un'iniziativa intanto europea, è stata lanciata e patrocinata a novembre del 2018 dalla Commissaria Europea per l'Economia e la Società Digitale, Mariah Gabriel. È stata istituita nel gennaio 2019 in seno all'EXO, che è l'European Cyber Security Organization, ed un partenariato pubblico-privato con la Commissione Europea, ed è dedicato alla sicurezza cibernetica in Europa. L'obiettivo è quello di aumentare il coinvolgimento delle donne, quindi nell'ambito della cyber security, che è questo quinto dominio sempre più strategico per il nostro futuro. Il registro Women for Cyber nasce per identificare e riunire in questa banca dati online a livello europeo. Riunisce tutta una comunità di donne, però con diversi profili professionali legati al cyber, quindi sia esperti di cyber, donne esperte di discipline STEM, ma anche organizzatori di eventi. STEM, che sono discipline, perdoni se la interrompo, ma per specificare, no? Le discipline scientifiche, sono tecnologiche. Scientifiche. Esatto. Scientifiche, tecnologiche, matematiche e matematiche. Esattamente, che sono un po' meno diffuse vedono un po' meno studentesse. Un po' meno scelte. Un po' meno scelte. Purtroppo questo gap di gender è un problema mondiale, soprattutto in questi settori, quindi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma anche in questo settore dell'informatica e di cyber security. Purtroppo le donne sono ancora molto sottorappresentate, che si sa che nel mondo solo il 28% dei ricercatori è donna in questo settore, e si sta cercando proprio con queste iniziative, anche quindi Women for Cyber è una di queste iniziative di networking, di far un po' innamorare le giovani studentesse di queste discipline STEM. Perché ne hanno... Come mai scelgono meno? Nel senso che ci occupiamo spesso di questo tema che è ovviamente molto centrale, ma mentre da un lato spesso parliamo del fatto che le donne vengono pagate meno, che le donne vengono scelte meno frequentemente per ruoli apicali, quindi diciamo c'è una responsabilità dall'altra parte, in questo caso le donne scelgono meno di fare questi studi e io mi chiedo come mai, nel senso se fa parte anche dell'educazione che tendenzialmente viene sempre detto vabbè ma la matematica è per i maschi, la tecnologia è per i maschi, è per questo? Ma penso che purtroppo ci sia ancora questo, questo sentito comune, però forse bisogna cominciare proprio dall'istruzione, probabilmente bisogna spiegare meglio già a livelli delle scuole superiori che non è un mondo prevalentemente maschile. Noi per esempio in elettronica abbiamo molte ingegnere donne, anche se sono ancora, come dicevo, il 10-15%, però stanno crescendo. Cerchiamo anche noi come azienda di fare delle collaborazioni con le università, per esempio abbiamo una collaborazione con la LUIS, forniamo un master di secondo livello in cyber security e poi abbiamo lanciato anche dei giochi chiamati Cypher Games proprio per gli studenti anche delle scuole superiori, per fare un po' avvicinare i giovani a questo mondo della cyber e soprattutto le ragazze. Credo che invece siano dei settori dove un lavoro di sicuro non manca, di sicuro il lavoro non manca. Questo... Il lavoro non mancherà, ecco, diciamo che si prevede moltissimi posti di lavoro, soprattutto fra qualche anno, che avranno necessità di esperti di intelligenza artificiale, quindi di tutte le discipline che ruotano attorno alla digitalizzazione e ci saranno moltissimi posti di lavoro a disposizione, quindi è proprio anche un invito con queste iniziative che proponiamo a livello europeo per i giovani, sicuramente maschi e femmine, di avvicinarsi a queste nuove discipline perché è il futuro, con la digitalizzazione tutto ruota intorno anche alla sicurezza del dato, quindi la cyber security sta diventando centrale in tutte le discipline. Lei diceva ma che per il... Ma quando parliamo di cyber... No, scusa Laura, vai. No, volevo sapere, siccome lei poco fa l'ho interrotta per chiederle quest'altra cosa, ma lei stava dicendo che il cervello femminile comunque è, diciamo, portato per queste discipline o addirittura può dare qualcosa in più? Ma io sicuramente è portato, perché sono discipline in cui sicuramente servono competenze matematiche, ma poi, come si dice, si può spaziare anche in questo umanesimo digitale, quindi la digitalizzazione non deve essere vista solo come una materia prettamente tecnica, scientifica, diciamo così, arida, ma nella sua applicazione poi, secondo me, una mente femminile può avere anche molta, molta creatività. Abbiamo visto, per esempio, come il post-Covid ha dato grande impulso a tutta la digitalizzazione, perché la digitalizzazione è servita ad aiutarci in problematiche quali il lavoro, l'istruzione, la gestione dei servizi, quindi sono discipline che poi hanno un ampissimo raggio di applicabilità, quindi penso che tutti possano accedere. Io concordo molto. Chiedo scusa, essendo l'unico uomo dei tre, ma io penso assolutamente che sia così, ma lo dico magari facendo anche un esempio stupido, ma credo che anche storicamente, per esempio, di conti e di questioni economiche all'interno della famiglia se ne è sempre occupata la donna, diciamo, forse l'uomo portava a casa lo stipendio e adesso per fortuna lo fa anche la donna, ma sicuramente come spendere, come decidere è sempre stato in capo alla donna, quindi onestamente penso che sia assolutamente così. Ma le volevo fare un'altra domanda: che cos'è esattamente la cyber security? Cioè, per dirla a uno stupido come me, cioè come entra nella vita di tutti i giorni? Perché io ogni tanto penso che stiamo parlando semplicemente di antivirus, ma ho la netta sensazione che io sia un po' limitato in questo. Beh, intanto, allora, la cyber security è un termine che raccoglie moltissime applicazioni. Portandolo però un po' nel mondo della vita comune, con la digitalizzazione noi siamo circondati da strumenti tecnologici, quindi strumenti che adoperano una rete, quindi non solo il computer ma anche, non so, la domotica oppure gli apparecchi di uso comune nelle case, sono tutti comunque collegati da un computer e sono tutti, come dire, possibili soggetti di attacchi cyber. Quindi qualunque cosa di tecnologico noi oggi utilizziamo, che sia dal robot della cucina fino al computer stesso, ma anche una macchina, per esempio, è diventata quasi un computer, sono tutti vulnerabili. E più digitalizziamo, quindi più entriamo in quest'era digitalizzata e più ci connettiamo l'un con l'altro, più siamo tutti passibili di attacchi cyber. Quindi la cyber security, che appunto si può declinare poi in tante altre discipline, cerca di mettere in sicurezza la connettività fra i vari utenti. Domitila Benigni, la ringraziamo davvero tanto per questa sua presenza qui. Ricordiamo a tutti il registro delle professioniste, appunto, della Cyber Security, Women for Cyber, GR24. Ci ritroviamo subito dopo, a tra poco anche a te, Carlo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I swore my innocence for pride, Christie ended in my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, it's so cold, but not as cold. 824-0024 è il numero che dovrete digitare per concorrere al nostro quiz. Carlo, sei sempre in linea, vero? Tutto a posto, tutto regolare, funziona tutto bene? Certo che sì, sono qui e ascolto. Benissimo, allora senti, ascolta questo se ti piace l'idea. Una scuola che paghi solo quando avrai trovato lavoro. Che te ne pare? Sai bene che mi piace moltissimo, è una bellissima, bellissima idea. Trovo che sia molto bella e sono molto curioso di sapere come funziona. Adesso ci facciamo raccontare tutto, restiamo però nell'ambito informatico. Lo dichiaro subito, Tobia De Angelis di Strive School, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Allora, noi siamo rimasti ovviamente affascinati da questo titolo, una scuola che andrai a pagare solo quando, no, avrai trovato lavoro e quindi avrai anche un capitale con il quale restituire, no, quello che hai ricevuto dai tuoi docenti. Allora, questa è quando e se aggiungo, nel senso che, se ho capito bene, se non lo trovi il lavoro non la paghi, non è che comunque ti inseguono poi per i prossimi 25 anni dicendo non hai trovato lavoro e ci devi ancora i soldi. Certo. Tuvia, come funziona? Tuvia, come funziona? Sì. Allora, anzitutto grazie dell'invito di nuovo, è un piacere. Sì, come funziona? Esattamente come ti ho raccontato nel titolo, cioè è un corso online intanto, quindi non abbiamo sedi fisiche. È un corso completamente in remoto, che per cui per joinare, per far parte di questo corso è sufficiente applicare, essere selezionati e poi hai bisogno solo di un computer e di un wifi e di 6-8 mesi di tempo, perché il corso è piuttosto lungo, dura 6-8 mesi ed è full time. L'argomento è? Sì, noi insegniamo programmazione in maniera professionale, diciamo programmazione web in maniera professionale, che significa? Cioè ti insegniamo a costruire siti tipo, per far capire le persone a casa, tipo Netflix, Airbnb, no? Questo tipo di applicazioni. In gergo si dice sia nel front end sia nel back end, cioè sia nella parte visuale sia nella parte di logica dietro. E ti insegniamo a farlo mettendoti a lavoro in team, quindi tu impari a lavorare con altre persone. Di fatto non è una vera e propria scuola, è più una simulazione di lavoro per 6-8 mesi, per cui impari a utilizzare strumenti professionali, tecnologie professionali, metodologie professionali che poi sono hai quelle messo che un sacco hai messo un sacco di elementi, devo dire, perché è molto interessante, però dobbiamo capire per chi ascolta, nel senso che è molto bello sentir dire da qualcuno che organizza una scuola iperprofessionale di 6-8 mesi, la cosa importante è lavorare in team, perché qualcuno può pensare, ma come, io sono a casa mia su un computer. Invece, infatti, ho trovato stupendo la vostra definizione di Erasmus digitale, correggimi se sbaglio, ovviamente, nel senso che... voi sottolineate anche il fatto che poi studiare insieme è più semplice, perché se uno è da solo dopo un po' si scoraggia, o magari se non capisce una piccola cosa, oppure se prende una direzione sbagliata e poi va avanti sulla direzione sbagliata magari per mesi. E quindi in qualche modo voi siete riusciti a unire le due cose, cioè una scuola che si fa da casa, ma dove in realtà, sempre grazie alla tecnologia, si è sempre in contatto, ci si confronta, immagino che ci siano persone anche di tutte le lingue. Esattamente, sì, il corso è completamente in inglese, quindi quello è necessario per poter partecipare, però ci sono persone da tutta Europa e questa è anche una parte molto bella, perché si fanno amicizie sparse, no? In maniera distribuita, e sicuramente è un'occasione di crescita personale. Su quello che hai detto della motivazione è verissimo, io diciamo che ci sono mamma e papà in ascolto, come ovvio che sia, diciamo, come loro sanno bene, non sono stato esattamente lo studente più bravo del mondo, però se non avessi avuto compagni di classe o persone che mi aiutavano, sai, quando un po' ti perdi è proprio difficile. Un po' questa cosa è vera anche sul lavoro, e soprattutto per le aziende è vero, nel senso che non vogliono solo persone che sappiano programmare, ma vogliono persone che sappiano farlo in un contesto di team, perché non si lavora da soli. Quindi noi abbiamo un po' replicato. Direi che i tuoi genitori si stanno prendendo la loro rivincita ascoltandoti in radio e sperando che tutti ascoltino in radio, e tu invece ci hai tenuto in questa occasione a ricordare che non eri un ottimo studente. No, non un grandissimo studente, vediamo se riesco a fare meglio come docente, come start-upper. No, per fortuna degli studenti non sono io che insegno, okay. Abbiamo persone molto però brave, possiamo dire però possiamo dire, anzi lo dovrai dire tu, che questa startup è entrata all'interno di un fondo molto importante, che di solito quando decide su una startup è un ottimo segno, giusto? Sì, diciamo che è vero, si chiama questo programma si chiama Y Combinator, che per chi è del settore penso che lo conosca, per chi non è del settore è diciamo l'incubatore, diciamo early stage fund, quindi il fondo di investimento iniziale nella fase della vita dell'azienda, che ha investito su Airbnb, su Dropbox, su aziende che probabilmente conosciamo tutti. Quindi sicuramente è una grande, come si dice, una cosa bellissima. Stiamo facendo questo programma con seguiti da professionisti incredibili, tipo il co-founder di Yahoo o il first employee di Yahoo, quindi insomma sicuramente anche per noi è un'occasione di crescita enorme. Importante. Ma certo. Io vorrei sapere, nell'ultimo minutino che abbiamo, come selezionate gli studenti? Perché insomma voi fate una scommessa, adesso voi insegnate, la professione è richiesta, no? Quindi va bene. Però insomma ci sarà una selezione all'ingresso, immagino. Sì, esattamente così, c'è una selezione all'ingresso, perché ovviamente diciamo il corso è completamente live, quindi, perché il vostro successo è il loro successo, quindi. Sì, esattamente, il nostro successo è il loro successo, quindi ovviamente dobbiamo selezionare per chi pensiamo che possa farcela, ma anche per loro, perché non è bello fare una roba e poi non avere successo. Lo facciamo anche un po' per evitare da entrambi i lati, no? I eventuali dispiaceri alla fine. Quindi cerchiamo di selezionare come lo facciamo, e facciamo un paio di colloqui e un test. È super semplice, e poi diciamo che basandoci su quello che vediamo, su quello che hai fatto prima, che cosa hai studiato, che cosa non hai studiato, ma soprattutto la cosa più importante è la motivazione. Quando vediamo qualcuno super super ecco, motivato. Questo che volevo chiedere. Cioè, voi vi occupate soprattutto della motivazione. Sì, noi quella è la cosa principale, nel nostro nome. Strive in inglese significa lavorare duro per, e quindi sappiamo che se non è motivato... direi. Sì, esattamente. No, per dirla in italiano, perché non sono sicuro, ma temo prima di aver ascoltato dalle tue parole per joinare il nostro corso, cioè da to join, e questo, perdonami, ma è veramente troppo. Hai ragione, va bene, in Italia, allora i miei amici, i miei amici mi sfottano già per questa cosa, purtroppo non riesco. Sei perdonato. Ormai ho dei bug. No, vabbè, se è un inglesismo va bene. Temevo che fosse l'ingresso di una nuova parola e non siamo pronti, Laura ed io, a joinare un corso. Però sai cosa siamo pronti? A joinare la viabilità, quindi adesso ci dobbiamo salutare. Grazie a Tobia De Angelis. Grazie. Strive School, come ha detto lui, strive, lavorare duro o sbattersi, come ha detto Carlo. C'è la viabilità tra poco. Si può fare. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, I can feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I can feel it still. We could fight a war for peace. E torniamo insieme per parlare di mare a questo punto. Perché? Perché è partita giovedì 16 luglio da Porto Santo Stefano, quindi in provincia di Grosseto, la ricerca, il tour di Greenpeace Difendiamo il Mare. Ebbene, adesso che siamo già un bel po' avanti, il tour si avvia verso il gran finale, noi vorremmo sapere com'è andato, in che condizioni è il Tirreno che appunto è stato scandagliato da questa imbarcazione che si chiama Bambù, tra l'altro una imbarcazione che è stata messa a disposizione dalla fondazione Exodus di Don Mazzi, e chiediamo qualche delucidazione ad Alessandro Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Che è direttore delle campagne di Greenpeace. Tra poco avremo anche Don Mazzi, appunto fondatore di Exodus, e insomma con lui parleremo di mare, ma non solo. Intanto Gianni, vorremmo sapere com'è andato questo tour, a che punto siete, e qualche appunto indicazione sullo stato di salute del Tirreno. Mi par di capire non benissimo quest'anno. Non benissimo, ma purtroppo non è un problema di quest'anno. Questa è un'area che ho letto qualche aggravamento rispetto al passato. No, ho letto di qualche aggravamento. Cioè, esattamente. Nonostante il lockdown, nonostante tutti fermi. No. Innanzitutto perché l'effetto più evidente che noi abbiamo registrato, perché chiaramente le indagini sono in corso, noi abbiamo adesso preso dei campioni, quindi abbiamo innanzitutto pubblicato i risultati delle attività dell'anno scorso, perché ovviamente per processare dei campioni e per avere, come dire, risultati scientificamente significativi, i ricercatori del Politecnico delle Marche e del CNR di Genova ci mettono del tempo. Con il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente. Avete ovviamente preso le due università più specialistiche sul tema del mare, no? Quindi. Del mare, in particolare per queste due, per la plastica, poi di Distav di Genova, che insieme stiamo realizzando una grande rete di sensori, di termometri, per misurare un altro effetto pericoloso che purtroppo il mare, insomma, da anni ci racconta, che è l'effetto del cambiamento climatico. Per esempio, noi la rete di sensori che abbiamo installato nell'autunno dell'anno scorso all'isola d'Elba ha documentato come le temperature marine fino, diciamo, a 45 metri di profondità quest'inverno sono rimaste un grado al di sopra della media normalmente registrata. Adesso un grado può sembrare tanto, ma siccome, giusto per dare solo un esempio, le tempeste che poi ci piombano sulla testa dipendono in gran parte dalla quantità di calore che c'è in mare, se il mare è così tanto caldo, da tutta questa enorme quantità di calore depositata, ecco, quello è tutta energia che si scarica sulle nostre teste, quindi è un segnale molto evidente che poi è reperibile anche per esempio sulle sofferenze che sono su organismi che non si possono muovere, come le gorgonie, che si riempiono di mucillagini, insomma con effetti piuttosto evidenti. Quindi basta un grado per avere questi effetti? Beh, un grado è una cosa enorme. Non è, no, un grado è in un bicchiere di acqua, è un grado nel mare. No, infatti è gigantesco, capito? E quindi, ecco, sono quantità di calore. Noi da una parte noi dobbiamo ringraziare il Mediterraneo, perché poi non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. Napoli ha la stessa latitudine di New York. Se avete visto le immagini di New York d'inverno, c'è gelo, c'è neve. Da noi abbiamo un'enorme borsa d'acqua calda, che è il Mediterraneo, che ci regala degli inverni miti. Però questa borsa si surriscalda, poi insomma ci sono anche le tracce dei primi, diciamo, proto-uragani mediterranei, si chiamano Mad Cane, Mad Cane in scritto. Hurricane. Esatto, Mediterranean Hurricane, sono dei proto-uragani che finora si sono sempre normalmente originati nella parte più calda del Mediterraneo, che è quella orientale, quindi verso l'isola di Rodi per intendersi, e poi si sono spostati varie volte verso il Mediterraneo centrale. Una volta sono riusciti a lambire la Sicilia, ma dopo aver perso gran parte della loro energia. Però appunto quell'energia dipende da quanto calore c'è nel mare, e quindi insomma prima o poi capiterà. Ma anche la famosa tempesta Vaia, quella che ha distrutto 1 milione di alberi, no, in Veneto, quella era associata a una enorme anomalia termica, che tra l'altro credo al largo delle coste campane è stata registrata fino a 70 metri di profondità, con temperature che erano tipo 3-4 gradi al di sopra della media tipica del periodo. Ecco, questa enorme energia che si concentra nel mare poi ci arriva addosso, e il mare ovviamente ne soffre, come soffre l'inquinamento, in particolare dell'inquinamento da plastica. E quindi noi vogliamo documentare tutto questo, e lo stiamo facendo in un'area che non è un'area qualsiasi, perché quello è un santuario dei cetacei, e quindi sarebbe stato importante che avessimo usato l'occasione del santuario dei cetacei, quindi per fare degli esperimenti, no? Per capire come potevamo convivere meglio col mare. Invece non solo non abbiamo fatto, ma addirittura, forse sapete, quel santuario è stato oggetto di una vera e propria discarica di 65 tonnellate di plastica, sì, è venuto, che sono state buttate, esatto, in mare, senza che succedesse nulla. Questo è grave. Cioè, dopo, ma è possibile che nessuno se ne sia accorto? Ma se ne sono accorti subito. Cioè, questa è una storia da... Dobbiamo essere chiari. La prima balla, no, perché si tratta di 56 balle di plastica che sono cadute, tra virgolette, da un'imbarcazione in mare. Questo è successo praticamente 5 anni fa, era il 23 di luglio del 2015. Questa nave è arrivata con qualche difficoltà in Bulgaria, dove ha portato il resto del carico che deve essere incenerito. Ma prima che la nave arrivasse in Bulgaria, la prima balla era già stata presa da un peschereccio, e a quel punto si sapeva cos'era successo, nel senso che si sapeva che c'erano delle balle in mare, e dopo pochi giorni il comandante ha dichiarato che ce n'erano ben 56. Dopo pochi mesi queste balle sono state almeno in parte localizzate. C'era una fideiussione di 2.800.000 euro che doveva garantire la sicurezza di quel trasporto, quindi doveva essere usata anche, come dire, per ripulire per quanto possibile il nostro mare. Quella fideiussione è stata restituita dalla regione toscana, e oggi, dopo 5 anni, noi dobbiamo dichiarare uno stato di emergenza nazionale e spendere una cifra che è stimata dell'ordine di 1 milione e mezzo di euro. Come mai è stata restituita? Come mai è stata restituita invece che adoperata? Questo è il grande mistero. Il Greenpeace ha presentato un ricorso alla Corte dei Conti, perché a nostro avviso, diciamo, lì ci sono due alternative: o quella fideiussione è stata restituita, come dire, in maniera illegittima, cioè non doveva essere restituita, quindi c'è stato commesso un reato, o perlomeno una disattenzione procedurale, no? E quindi qualcuno deve pagare, oppure, e questa è l'opzione peggiore, quella fideiussione è stata legittimamente restituita. E questo vuol dire che il nostro mare è assolutamente indifeso. Cioè, è molto peggio, certo, il fatto che non ci, certo, sia stato nessun reato, perché vuol dire che queste fideiussioni sono una finta. Il nostro mare può essere usato liberamente, anche se è un santuario dei cetacei, come una discarica. Questo è qualcosa di orrendo a cui noi ci opponiamo. Quindi noi vogliamo sapere se questa cosa si poteva fare o non si poteva fare. Ah, ma io vorrei anche sapere perché, certo, comunque stanno lì da 5 anni. Perché nessuno perché nessuno ha tirato su nel santuario. Esatto. No, santuario non santuario, fosse anche un punto non protetto, ecco, perché io butto giù queste robe e nessuno poi le lasciamo lì, perché la lasciamo lì. Sì. Ma Ma a noi ci risulta che gli organismi di questo sedicente santuario dei cetacei, gli organismi amministrativi, scientifici, non siano mai neanche stati coinvolti e informati da questa faccenda. Quello è un santuario di carta, è una grandissima vergogna, è una finta clamorosa. Cioè, noi non possiamo riempirci la bocca del fatto che abbiamo un'area protetta più grande del Mediterraneo e poi ci succedono queste cose. Signori, non è mai stata comminata una singola multa a qualcuno per aver violato una qualsiasi norma che riguarda la tutela di queste acque, perché queste norme non esistono. Il santuario dei cetacei ha una normativa che si può riassumere in un rigo: qui dentro valgono le stesse regole che valgono fuori, non c'è altro, c'è qualche piccola limitazione per le competizioni offshore e niente altro. Allora, mi sembra quasi peggiorativa, se posso dire, nel senso che se a casa mia qualcuno mi butta 56 balle di plastica sicuramente io reagisco, invece lì non reagisce nessuno. Adesso, dopo 5 anni, però, capito, bisogna arrivare all'emergenza. Questo è tipico di questo paese. Certo. Allora, io vorrei presentare anche, introdurre, perché presentare c'è poco da presentare, ben noto, Don Mazzi, che ci ha raggiunto, è in collegamento, ci ha ascoltato negli ultimi minuti. La Fondazione Exodus, infatti, è partner di questa iniziativa Difendiamo il Mare, ha messo a disposizione la barca vela Bambune, con la quale si sta appunto facendo questo tour Difendiamo il Mare. Buongiorno Don Mazzi. Ciao. La prima cosa le chiedo come vi siete trovati, cioè no? Non immaginavamo di trovarvi partner di Greenpeace in questo, come mai? Noi Greenpeace la conosciamo, per la prima barca ce l'ha andato loro, siamo stati i primi a montare sulla barca 20 anni fa, va bene, sulla barca di Greenpeace, perché io ci tengo molto i nostri ragazzi, per rieducare i giovani. Non c'è mica bisogno di psichiatri, di psicologi, di tutte le putanate che abbiamo inventato noi per le comunità. La natura, pensa, il lavoro e la natura, mare, no? Anche il rispetto del mare, il rispetto del cielo, il rispetto del verde, sono più, c'è poesia, c'è educazione, c'è meraviglia. E 20 anni fa siamo stati noi a andare sulla barca di Greenpeace. 20 anni dopo siamo noi che offriamo la nostra barca a Greenpeace per questa avventura. Beh, mi sembra questa un bello scambio, assurda, no? Mi sembra un bello scambio tra una roba straordinaria, ma è sempre stata un'amicizia. E adesso, anzi, è già da un anno che lavoriamo insieme e continueremo a lavorare, perché a parte questo sacrilegio, va bene, questa bestialità che sta succedendo, così, con il menefreghismo generale degli italiani, non ne frega niente, capito? Sono qua tutti con le barche a godersi questo mare, mentre c'è questa bestialità, ecco, che è successa e che è ancora lì. Va bene, perché noi abbiamo la più bella nazione del mondo, va bene, ma siamo analfabeti, ecco. Noi siamo analfabeti. Bisogna insegnare a scuola dalla prima elementare, perché va bene, quando si parla di geografia, quando si parla di storia, quando si parla di natura, si deve parlare di queste cose qua, capito? E bisogna creare la sensibilità, la coscienza. Tu non hai idea, i nostri ragazzi, quando sono in barca con loro, quando tornano la felicità, va bene? Hai capito? Hanno fatto un è come avessero fatto un corso speciale, li trovi cambiati, la natura ci cambia, capito? Sicuramente sì. Allora, natura o non natura, io da mandare il meteo, per l'appunto. Vi chiedo di stare in linea ancora un attimo, vorrei parlare con entrambi, insomma, subito dopo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Insomma, io avrei tantissime domande per Alessandro Gianni, che è direttore delle campagne di Greenpeace, e anche per Don Mazzi, ovviamente, come sappiamo tutti, la fondazione Exodus, sappiamo, adesso ci ha raccontato di questa barca a vela bambù con la quale si sta facendo il tour Difendiamo il Mare. Una delle prime sicuramente che vorrei fare ad Alessandro Gianni, visto che Don Mazzi ci diceva di quale beneficio educativo hanno, no, i ragazzi nel partecipare alle vostre campagne. Beh, insomma, come si partecipa? Adesso quest'anno ci sono delle limitazioni ovviamente a causa Covid, ma in generale si può? Beh, Greenpeace fa soprattutto attività di volontariato, quindi ha dei gruppi di ragazzi che, come dire, si offrono di partecipare alle nostre attività. Questi gruppi di volontari organizzano poi alcune volte anche attività educative nelle scuole. Ora, chiaramente questo è stato un anno un po' particolare per tutti, però ecco, devo dire che a me piacerebbe veramente, e noi l'abbiamo anche fatto in passato in realtà con Exodus, organizzare qualcosa che riguardi l'educazione ambientale, perché è un tema sempre più centrale ed è un tema rilevante, perché gran parte ormai della nostra popolazione, quindi anche dei ragazzi, sono urbanizzati, quindi tendono a perdere il contatto con la natura, salvo poi, no, a scoprirlo quando ci arriva addosso una tempesta, non capiamo che succede, oppure inquinamento. Quindi per evitare brutte sorprese, la conoscenza è un ottimo meccanismo di difesa. E poi c'è la meraviglia, la poesia, insomma, il mare. Anche io, appunto, ho avuto il piacere di navigare con dei ragazzi di Exodus, ho visto, insomma, l'idea della libertà che esprime il mare aperto, no? Quando intorno a te non c'è altro che acqua, non vedi nulla, sei su questa isoletta che è l'imbarcazione, e intorno non c'è niente, vai e arrivi in un posto diverso da quello dove sei partito, sì. Capito? Cioè, anche l'idea dell'esplorazione, della sorpresa, che non sai dove arrivi, cioè questo ti apre veramente la mente, cioè, il mare è davvero è molto giusto. Esatto, vedere il mare come luogo di educazione, come fenomeno anche educativo. E a proposito di educazione, vorrei chiedere a Don Mazzi, che ha scritto una bellissima lettera aperta: cari studenti, riprendetevi la bella scuola. È una lettera anche breve, ma veramente piena di cose molto molto precise, diciamo, facendo un paragone con i suoi tempi della scuola, quando doveva schivare le bombe per arrivare in classe. Giustamente dice: ragazzi, fate di tutto per andare a scuola, e se qualcuno dovrà andare al mattino, qualcuno andrà al pomeriggio, qualcuno andrà anche la sera, obbligate i professori a farvi lezione anche fino alle 22, che problema c'è? Perché soprattutto che è al liceo, non è che non si può studiare dalle 19 alle 22. E volevo chiedere se qualcuno aveva risposto a questa lettera, come sta andando? Ah, non te lo so dire, perché purtroppo adesso sono anch'io vicino a voi, sono venuto qui all'Elba, e quindi le risposte, se arrivano su a Milano. Però devo dirti che... Ma lei le risposte le conosce, anche se non le legge, secondo me. No, ma le conosco sì, perché i ragazzi non tradiscono mai, ricordati bene, sono gli adulti che tradiscono. I ragazzi non tradiscono mai, sbagliano, ma non tradiscono. Che è una roba diversa, capito? I grandi traditori sono condivido. Gli adulti. I grandi traditori sono i ragazzi. Se li prendi, se li guardi in faccia, se capisci che hai stima di loro, questi te li porti dovunque. E quindi anche con Greenpeace noi siamo le braccia, voi siete il cervello. Ma capito, perché la barca, perché abbiamo anche il nostro che guida addirittura la barca, i ragazzi che mantengono la barca. Ma è una cosa straordinaria. Non so, mi ha fatto venire voglia di imbarcarmi a me, così, Don Mazzi. Ma sì, ma tu non hai l'idea. Io mi domando, ma perché in un'Italia così, va bene, che basta che apriamo gli occhi, va bene, ci viene da piangere per le bellezze che abbiamo, stiamo lì chiusi dentro a queste 6 ore, questi ragazzi di 15 anni, 14 anni, chiusi dentro in un'aula, ma dove siamo? Siamo ancora nel Medioevo, siamo ancora nel Medioevo. Io spero con Greenpeace di fare 3 mesi, va bene, adesso sto parlando anche con Stani, che è nostro, quello che guida la comunità, 3 mesi in barca, facciamo la scuola in barca per 3 mesi, va bene. Vogliamo la geografia. Ma io vengo a fare il mozzo, se avete bisogno vengo e faccio esperienza. Non so, anche Carlo. Ma sì, ma bisogna che no, perché anche noi abbiamo bisogno di uscire dalle pareti. Non divenga un momento di rabbia dei nostri ragazzi, va bene? Che divenga un momento di poesia, di felicità, di gioia, e si può fare. È molto giusto. E forse bisogna usare questo momento, perché giustamente questa cosa la si dice da un sacco di tempo, che la scuola non va bene come è organizzata. Forse in questa occasione abbiamo un'occasione gigantesca, sì, che sì, è terribile, sì, chiamarla lockdown, ma è forse un'occasione per ripensarla. Perché è anche semplicemente quello che dice lei nella lettera, dicendo se uno può studiare la sera, ma perché no? Cioè, che problema c'è? Sì, ma perché bisogna fare? Io non capisco perché bisogna spendere milioni per fare dei banchi. Fai da 3/4 d'ora, che tra l'altro, va bene, sono più che sufficienti. Se un bravo insegnante, se un bravo docente, se sono momenti straordinari, 3/4 d'ora sono più che sufficienti. Fai 5 ore la mattina, 5 ore al pomeriggio e 4 ore la sera. Cambia tutto. I banchi servono, tutto, però. Capito? Qualche cosa servono anche i banchi. Ma come? I banchi, dico, servono anche, non è che si può semplicemente... Ma che si può sedersi anche per terra, ma va là. Racconto la mia, sono sempre stato fuori di testa, il cosiddetto borderline, perché qui bisogna parlare in difficile, capito? Sono stato... A noi ci piace fuori di testa. A cosa servono i banchi? Va bene, si può sederci per terra, puoi farla nel giardino, puoi farla fuori, puoi andare in qualsiasi porto, poi se ci bisogna anche dei banchi, va bene, e fai una giusto, sala, un si costruiranno dove... i banchi. Come esatto. È? Infatti lei ha anche detto che darà la sua aula più bella e la certo, metterà a disposizione per le mattine. Va bene. Esatto. Sono felice, e giustamente di dice è un segno, e chi altro dovrebbe mettere a disposizione altre aule per dare la possibilità a tutti i giovani di studiare a qualunque ora? Sì, invece di spendere soldi, mettiamo, cioè, tutto il sociale, va bene, si mette d'accordo, ma possiamo superarlo sto momento. Possiamo superare senza spendere neanche una lira, ma però la scuola diventa nostra. I genitori la devono smettere nella scuola per litigare, devono capire che la scuola è un momento formativo per tutti e anche per loro. È chiaro che ci sono i pregi e i difetti in ogni cosa, ma che cosa vuol dire? Giusto. Vabbè, comunque, grazie. Comunque il discorso è sempre un piacere. Intanto noi Greenpeace andiamo avanti e cerchiamo di che si pulisca, anche perché non c'è solo la profanazione del santuario, ma tutto il mare profanato, perché ci sono porcherie dovunque, non è possibile. Sì, quest'anno ci sono anche di più, perché ci sono anche queste maledette mascherine in giro. Io mi raccomando a tutti, buttatele dove vanno buttate e non per strada. Io voglio ringraziarvi entrambi, Alessandro Giannini, direttore delle campagne di Greenpeace. Grazie, allora attendiamo i risultati, no, finali, scientifici di questo tour di quest'anno. E anche domani. Dal punto di vista scientifico aspettiamo i risultati, ma dal punto di vista educativo... Li ho già avuti. Li abbiamo già avuti, esatto. Grazie, Tommaso. È straordinario, giusto, hai capito? È straordinario, giusto. Sono felicissimo. Grazie davvero a tutti. Buon proseguimento. E adesso abbiamo una concorrente per il quiz. Rosy dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Rosy, tutto bene? Sì, bene, grazie. Voi? È pronta? Sì. Sì? Sì, pronta. Noi bene. Allora, noi bene, sì, noi bene. Poi secondo Mazzi ci siamo gasati un po' tutti, non lo sì, so. Adesso andiamo tutti a fare un po' di barca, un po' di lavoro in barca. Ma volentieri, io sono in montagna. Vabbè. Andrei al mare volentieri, sì. Allora, pronta, Guardi, parliamo proprio di Casargo, provincia di Lecco. Quest'anno tutti i villeggianti che risiederanno nella piccola località montana riceveranno un regalo di benvenuto. Di cosa si tratta? Risposta numero 1, una bici elettrica per godere delle bellezze del territorio senza inquinare. Risposta numero 2, il kit del turista responsabile, comprensivo di gel igienizzante, mascherine e materiale informativo. Risposta numero 3, una serenata VIP intonata dal sindaco direttamente sotto la propria finestra. No, io penso la risposta numero 2. Il kit. Certo, e giustamente il nostro notaio. Ma lei non è che ci chiamava da Casargo, magari, provincia di Lecco? No. Meno male. Tremana, lì vicino comunque. No, ma va benissimo. Il caso ha voluto che proprio avessimo questo quiz e che lei chiamasse da Lecco, incredibile ma vero. Comunque, ha vinto. Ha regalato a tutti i villeggianti un regalo di benvenuto, un kit del turista responsabile con gel, mascherina, materiale informativo e, come diceva prima Laura, con la raccomandazione di non gettarla in mare, nemmeno per terra. E neanche nel lago, neanche in montagna, vero Rosy? Certo. Va bene, grazie molte. Allora, buona giornata. Vince un libro della collana Il lato divertente di imparare. Adesso c'è la viabilità, tra poco con la classifica. Si può fare. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci con le 5 migliori notizie di questa settimana. Iniziamo da San Marino, che diventa il primo Stato a riconoscere la gentilezza come valore sociale, in grado di favorire una crescita della comunità sul fronte sociale e culturale e di incrementare la condizione di benessere generale ed individuale. Cosa si intende per gentilezza? Beh, dicono a San Marino, la gentilezza può essere declinata nelle varie espressioni del nostro quotidiano, manifestarsi nei piccoli gesti di apertura verso gli altri, di comprensione, di conforto, di gratitudine o di perdono, valori fondamentali per vivere a lungo e felici. E al quarto posto un manifesto incredibile dei milionari al grido di l'umanità è più importante dei nostri soldi. Un gruppo di 83 milionari hanno firmato una petizione ai governi mondiali affinché varino un aumento fiscale permanente sulle grandi fortune, immediatamente, in maniera sostanziosa e per sempre, con l'obiettivo di fornire più risorse a chi deve combattere nelle corsie di ospedale, ma non solo, la battaglia contro le conseguenze della pandemia di Covid-19. Sotto il motto di Millionaires for Humanity, i firmatari invocano un aumento delle aliquote per affrontare le conseguenze del coronavirus. Sono parole bellissime, andatevi a leggere questo manifesto e ne siamo contenti. E al terzo posto invece abbiamo il Portogallo, che anticipa la chiusura delle sue centrali a carbone. Infatti l'utility energetica portoghese EDP ha annunciato la chiusura della centrale a carbone di Sines, che dico tra l'altro è un posto bellissimo, anticipandone così l'arresto di 2 anni rispetto a quanto precedentemente stabilito. Come da nota, oltre a quella di Sines, la società si sta preparando a chiudere un altro impianto e a convertire un'altra centrale che è situata in Spagna. La decisione parte della strategia di decarbonizzazione del gruppo EDP ed è stata presa in un contesto in cui la produzione di energia dipende sempre più da fonti rinnovabili, ha spiegato la società portoghese. E al secondo posto il Sudan, che cambia pelle. È stata smantellata la Sharia e abolite le mutilazioni genitali, che era un problema e che è tuttora un problema per moltissimi paesi. Dopo 30 anni sotto il giogo dittatoriale di Omar al-Bashir, il Sudan si lascia alle spalle molte delle norme ispirate alla legge coranica, appunto la Sharia, a cominciare dalla pena di morte per un musulmano che si converte ad un'altra religione, fino alla criminalizzazione, cioè da oggi è reato, delle mutilazioni genitali femminili. È stato abolito il divieto al consumo degli alcolici in luoghi privati, l'obbligo per le donne di viaggiare con la prescrizione del capofamiglia, la cancellazione della pena capitale per sodomia, costata la vita a centinaia di omosessuali sudanesi. Un assunto molto chiaro per l'attuale ministro della giustizia, che ha così inaugurato e modificato questi diversi emendamenti al codice penale, tutti tesi ad abrogare le norme basate sulla Sharia. E ci sembra un ottimo si può fare, bisogna continuare a farlo. Una notizia bellissima davvero. Al primo posto abbiamo scelto di mettere però il Recovery Fund, che è stato il raggiungimento, l'accordo storico per l'Unione Europea dopo 4 giorni di summit, una giornata storica per l'Europa, hanno detto in tanti, sicuramente il più lungo, la più lunga trattativa della storia dell'Unione Europea. I leader europei hanno raggiunto questo accordo sul Recovery Fund e del bilancio europeo 2021-2027 al termine di un negoziato durato 4 giorni e 4 notti. All'adozione delle conclusioni è seguito un lungo applauso, io direi liberatorio, anche visti 4 giorni di lavori. Il Recovery Fund ha una dotazione, come sappiamo, di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il bilancio è stato affissato a 1.074 miliardi. E beh, c'è qualche implicazione sull'ambiente, ma se volete sapere esattamente quali capitoli di spesa sulla decarbonizzazione europea verranno toccati, vi invito a Che Cosa, a Ma Che Cos'è Quest'Estate, che va in onda da lunedì alle 8, e ci sono anch'io, Carlo, scusa, faccio un po' di pubblicità. Ci mancherebbe, ma ricordiamo anche che ne parleremo anche domani, se non sbaglio, proprio di questa questione. Give me five. All right. Give me five. All right. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day. Fuori classifica, ma comunque una bella notizia, è l'uscita di questo libro Emozioni virali, le voci dei medici della pandemia. La curatrice di questo volume è Luisa Sodana, in collegamento con noi. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno. No, grazie a lei per aver raccolto le voci dei medici che hanno vissuto questa emergenza in prima linea, alcuni, altri magari un po' più defilati, altri hanno scoperto, insomma, il loro valore in un secondo momento. Mi viene in mente la storia dei dermatologi, all'inizio dicono ma cosa possiamo fare noi, e poi si scopre che purtroppo questo virus ha anche delle implicazioni che, per le quali i dermatologi, la loro esperienza e la loro specializzazione è fondamentale. Quindi insomma è bello che abbia raccolto tutto questo insieme. Sì, intanto volevo ringraziare i colleghi e in particolare gli autori di questi racconti e una decina di loro che mi hanno accompagnato in questa esperienza veramente particolarmente significativa ed emozionante. Lei ha focalizzato un aspetto molto interessante sia del gruppo Facebook dei 100.000 da cui il libro è nato, sia del libro stesso, e cioè che la pandemia sicuramente ha travolto e stravolto, come dice una nostra collega, i medici che erano in prima linea, gli anestesisti rianimatori, gli pneumologi, gli internisti, i geriatri e tutti quelli che sono stati riconvertiti durante la pandemia, però ha travolto e stravolto anche chi sembrava che non fosse proprio coinvolto in primis, appunto i dermatologi. Pensi che le prime segnalazioni di aspetti dermatologici dell'infezione da SARS-CoV-2 praticamente sono arrivate nel gruppo Facebook dei 100.000, almeno per quanto riguarda l'Italia. e quindi veramente è stata un'esperienza importante dal punto di vista tecnico e scientifico, ma anche dal punto di vista emozionale. E certo, c'è ad esempio il racconto della dottoressa che segue dalla Svizzera, no? La malattia del padre. Carlo, sì, tu invece cosa dicevi? No, no, ero curioso di capire la nascita di questo libro, cioè questa, la pagina dei 100.000, spiegare anche ai nostri ascoltatori, nel senso che se ho capito bene nasce come un gruppo di soli addetti ai lavori all'inizio, di medici e quindi di persone che si confrontano proprio nel momento in cui hanno a che fare con questo virus di cui non si sa niente, parliamo di marzo immagino, parliamo di aprile, e iniziano a confrontarsi e poi lentamente aggregano fino a 100.000 persone interessate, è così? Sì, il gruppo è ancora chiuso, è appunto rivolto soltanto ai medici per vari motivi, compresi probabilmente problemi di privacy, perché ci si scambia anche storie cliniche importanti. Un ringraziamento al fondatore di questo gruppo, che è il dottor Camillo Il Grande, un chirurgo della dirigente di Catania che lavora a Messina, e che velocissimamente, appunto all'inizio della pandemia italiana, ha riconvertito un gruppo già esistente ma con poche centinaia, migliaia di medici in un gruppo provvisoriamente, diciamo così, dedicato al nuovo coronavirus. In poco tempo, sì, prego. No, io purtroppo devo chiudere perché c'è GR24 che incombe, allora voglio assolutamente ricordare Emozioni virali, le voci dei medici dalla pandemia, editore Il Pensiero Scientifico, 18 euro, grazie a Luisa Sodano che è stata con noi e ce l'ha illustrato. GR24, appuntamento a domani da Laura Bettini. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.